e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata, questa puntata del lunedì di Focus Economia. Sono molti temi, come avete sentito anche nel nostro giornale radio. Innanzitutto l'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni imprenditoriali per la moratoria dei crediti delle piccole e medie imprese. Naturalmente vedremo di capire un pochino meglio di cosa si tratta e sentiremo le voci dei protagonisti di questa giornata. Una giornata che sul fronte borsistico vede Piazza Affari e non solo, tutte le borse europee e anche quella americana particolarmente positive. Il FTSE All-Share guadagna l'1,61%, il FTSE MIB l'1,69%. In una giornata, bisogna dire, dominata anche dal settore auto, dove Fiat è sicuramente la regina del listino, ma oltreoceano per Ford le cose non vanno peggio. Parleremo di nucleare perché è arrivato a conclusione l'accordo, la joint venture tra Enel ed EDF, una joint venture che era stata annunciata con un memorandum nel mese di febbraio per quanto riguarda appunto il nucleare. Vedremo di capire di cosa si tratta esattamente e anche la famosa vicenda dei pro e dei contro, naturalmente sul fronte puramente economico. E poi torneremo sul passante di Mestre. Insomma, abbiamo passato una settimana intera, la scorsa, a parlare di problemi del sud, di soldi che dovevano andare al mezzogiorno. Tra l'altro in queste ore è in corso un incontro su questo tema ad Arcore, presenti il ministro dell'economia Giulio Tremonti e naturalmente il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. E poi ci risvegliamo dal fine settimana e ci ritroviamo con un pezzo del cuore produttivo d'Italia che è impastoiato sempre più o meno negli stessi problemi infrastrutturali. Adesso però le notizie in breve di questa giornata. Come sempre partiamo dal petrolio, un petrolio che ha aperto il rialzo a New York sopra i 71 dollari al barile, appena sopra in realtà 71,01 per essere esatti, con un guadagno del 2,3%. Sempre in tema di energia, la joint venture della quale vi parlavamo, quella con EDF per il nucleare in Italia. Nascerà una nuova società che si chiamerà Sviluppo Nucleare Italia SRL, avrà il compito di realizzare gli studi di fattibilità per la costruzione di almeno 4 centrali nucleari con tecnologia di terza generazione, come previsto appunto dal Memorandum of Understanding di cui si diceva sopra. Una giornata di borsa dominata dal settore auto, certo, ma anche dal settore bancario, perché su questo fronte sono arrivate due semestrali importanti, in realtà quella della prima banca europea HSBC, che chiude il primo semestre con un utile di 3,35 miliardi di dollari. Fatto che ha sorpreso gli analisti, che si aspettavano una perdita di 600 milioni, a spingere il risultato, che è comunque inferiore del 57% rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno, e per forza si dirà con la crisi che c'è stata, è stata la performance della divisione titoli, che ha più che raddoppiato i profitti. E poi c'è anche la semestrale di Barclays, la seconda banca britannica, che ha chiuso il primo semestre con un utile in crescita del 10%, tuttavia inferiore alle attese degli analisti, ma questo sembra non aver fatto particolarmente male ai mercati. Sempre in tema di semestrali è arrivata poco fa quella di Prysmian, ossia la divisione cavi ex Pirelli. Nel primo semestre del 2009 ha registrato ricavi per 1,8 miliardi contro i 2,6 miliardi dello stesso periodo del 2008. Restiamo in tema di crisi, andiamo negli Stati Uniti. L'indice ISM manifatturiero in luglio è salito oltre le stime, è salito a luglio a 48,9 da 44,8 del mese precedente, superando le attese di un rialzo a 46,5. Poi la spesa per le costruzioni negli Stati Uniti a giugno ha segnato un rialzo dello 0,3% rispetto al mese precedente, smentendo le previsioni degli analisti per un meno 0,5%. Insomma, in molti si chiedono se veramente gli Stati Uniti stiano vedendo il fondo della recessione. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi ci sono parole di Alan Greenspan, innanzitutto ormai vituperato ex presidente della Federal Reserve, che dice che la recessione non è ancora alle spalle, ma la fine è vicina, lo ha detto in un'intervista alla ABC. Ma ha parlato anche il segretario al tesoro americano Timothy Geithner, che dice ci sono segnali che l'economia americana sta iniziando a migliorare, ma ulteriori azioni per cementare la ripresa potrebbero essere necessarie. Sempre un'intervista alla ABC, della quale sentiamo un passaggio. Ci sono segnali che la recessione si sta attenuando. Alla fine dell'anno scorso eravamo quasi in caduta libera con un sistema finanziario sull'orlo del collasso. Le azioni intraprese dalla nostra amministrazione sono state estremamente utili per stabilizzare le condizioni e riparare il sistema finanziario, abbassando il costo del denaro. È giusto sottolineare come la disoccupazione sia ancora molto elevata in questo paese. Dobbiamo fare in modo che gli americani acquistino maggior fiducia per quanto riguarda il futuro. E per fare questo bisogna far capire alla popolazione che stiamo facendo il necessario per riportare il paese alla crescita. E insisteremo su questo aspetto finché gli americani non torneranno ad avere fiducia. Il consenso della maggior parte degli economisti dice che si inizieranno a vedere i primi segnali di crescita nella seconda parte dell'anno. E altri segnali sembrano arrivare sempre dagli Stati Uniti e riguardano le vendite di Ford. Se ne accennava prima, sul mercato americano in luglio sono salite del 2,3% a 165.279 unità contro le 161.530 del luglio 2008. Si tratta del primo aumento su base tendenziale per la Ford da due anni a questa parte. E notizie positive arrivano anche dalla Francia, sempre per le vendite di auto nuove, più 3,1% in luglio. È attesa tra l'altro per le 18 il dato italiano che arriverà dalla motorizzazione. Non vanno benissimo le cose a quanto pare invece in Germania, e non parliamo più di auto ma più in generale di economia e di commercio al dettaglio. I volumi del commercio al dettaglio, secondo i dati provvisori, sono diminuiti a giugno in termini destagionalizzati dell'1,8% su base mensile, ed è una delusione per gli analisti che si aspettavano un più 0,5% anche su base annua. Ma qua si poteva chiaramente immaginare, c'è stata una contrazione del giro d'affari sugli stessi livelli, pari all'1,6%, sebbene ci si aspettasse un aumento dell'1,4%. E veniamo all'Italia. Tra un attimo parleremo della cosiddetta moratoria sui crediti delle piccole e medie imprese, ma nella conferenza stampa nella quale è stato annunciato l'accordo si è parlato anche dei Tremonti Bond. Tremonti Bond sono in fase istruttoria per Unicredit e Intesa San Paolo. Lo ha annunciato il direttore generale del Ministero dell'Economia, Vittorio Grilli, appunto durante la firma di questo protocollo. Dal punto della situazione presto detto, abbiamo dal punto di vista anche del monetario, abbiamo concluso anche con la sottoscrizione monetaria il primo di questi strumenti liquidi col Banco Popolare, ne abbiamo due in fase di finalizzazione, adesso per il parere al Parlamento, che è il Monte dei Paschi e la Banca Popolare di Milano, e due che sono ancora in una fase, diciamo così, di istruttoria, che sono l'Unicredito e Banca Intesa. Tremonti Bond, che lo ricordiamo, sono uno strumento creato per aiutare le banche sul fronte della liquidità. In pratica si tratta di obbligazioni emesse dalle banche, sottoscritte dal Tesoro, con rendimenti tra il 7,5% e l'8,5%, non c'è nessuna penale per il rimborso anticipato, la disponibilità complessiva è di 10-12 miliardi di euro e si dice che con effetto leva possano muovere risorse per circa 150 miliardi. È sempre in tema di politica economica italiana da segnalare naturalmente che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legge correttivo di alcune disposizioni del decreto legge anticrisi varato dal governo lo scorso 1 luglio. Il Presidente della Repubblica ha successivamente emanato il decreto legge correttivo, che entrerà in vigore contestualmente alla legge di conversione del decreto anticrisi. E veniamo al primo tema di questa giornata. Dunque, è stato siglato a Milano l'accordo tra ABI e organizzazioni imprenditoriali che prevede, tra le altre cose, anche la moratoria per la restituzione dei crediti alle aziende. È stato firmato anche dal Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, è stato siglato dal Presidente dell'ABI, Corrado Faissola, e in rappresentanza del mondo imprenditoriale dalla Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dal Presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, ma anche da tutte le altre associazioni datoriali. Al tavolo erano presenti anche i Presidenti di Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, Confesercenti, Lega Cooperative e Confapi. Cosa prevede l'accordo? L'accordo prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e leasing. Queste possibilità riguardano solamente imprese che hanno ritardi nei versamenti delle rate non superiori a 180 giorni. Ma vediamo di spiegarla un po' meglio con questa scheda di Valeria De Rosa. Salutata da tutti i partecipanti al tavolo come una svolta decisiva, come una boccata d'ossigeno, come un passo fondamentale. Ma cos'è questa moratoria? Chi può aderire e da quando entrerà in vigore? Andiamo con ordine, anche perché le sorprese non mancano. Dunque, l'accordo prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e ancora la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei cambi di leasing immobiliare e mobiliare. Va da sé quindi che la quota relativa agli interessi andrà pagata. Infine, prevede l'allungamento da 180 a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine. Ammesse all'accordo le piccole e medie imprese. Non tutte però, solo quelle che al 30 settembre 2008 erano in bonis, quindi non avevano esposizioni con la banca classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate o scadute. Non solo, è necessario che non siano in sofferenza anche al momento della presentazione della domanda per la moratoria. Per tutte vale la stessa regola. Al momento della richiesta di sospensione del pagamento delle rate, queste devono essere in scadenza o già scadute da non più di 180 giorni. L'accordo entra in vigore da oggi, ma non è obbligatorio per gli istituti di credito. Le banche che aderiranno si impegnano a rendere operativa l'intesa entro 45 giorni. 45 giorni dall'adesione, però, quindi non è detto che dopo l'estate abbiano già fatto una scelta. Una volta ricevuta una richiesta, la banca sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi. Le domande da parte delle PMI potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. Per il manuale contenente le procedure da mettere in tutte le sedi bancarie, postali e delle associazioni di categoria, bisognerà aspettare la metà di settembre. Speriamo in tempo per prevenire un autunno annunciato da molti come caldo, almeno sul fronte della liquidità del credito. E tra poco andremo a commentare questo accordo. Innanzitutto ci sentiamo queste voci di giornata, unanime soddisfazione, ci dice la nostra Valeria De Rosa. Ebbene, iniziamo dal ministro dell'economia, Giulio Tremonti, che ha usato una metafora, spesso accade in realtà, la terra deve riposare, dice, bisogna metterla a maggese e attendere il tempo giusto. Ascoltiamo. L'idea alla base di tutto è l'idea della moratoria. Io all'ABI ho usato un'espressione più intensa, la parola sabbatico. La terra deve riposare. In tutta la storia economica, nella vita dell'umanità, ci sono fasi nelle quali è giusto lasciare riposare la terra, metterla a maggese, attendere un tempo giusto che dovrebbe o potrebbe arrivare. Ed è questa la ragione per la quale consideriamo, credo noi tutti, importante questo avviso comune nella logica della patrimonializzazione e nella logica della moratoria. E poi il lato delle banche, i benefici per le banche, la deduzione delle perdite ci sarà soltanto se l'accordo funziona, sottolinea Tremonti. L'impegno del governo è naturalmente nel senso di favorire, e la parola avviso comune è stata scelta derivandola dal linguaggio sindacale, il rapporto con le parti sociali è stata scelta apposta. Il ruolo del governo non è quello di parte nell'accordo, se non nei termini del patronage e dell'impegno finale. Se l'accordo funziona, il governo modifica il sistema fiscale di qualificazione delle perdite su crediti, ma solo se il rapporto verificato empiricamente, non il sistema, ma banca per banca, se l'accordo funziona. Quindi vedere moratoria dare sgravi fiscali, non viceversa. Anche in questo l'esperienza fatta ci ha dato una qualche base empirica di riflessione. Il modo giusto, noi crediamo, è questo. E beh, visto che il ministro dell'economia si rivolge alle banche, sentiamo la voce delle banche. Il sistema Italia ha dato una risposta unica al mondo al problema della crisi. In 20 giorni ha trovato una coesione altissima per dare una risposta in tempi rapidi. Le parole sono del presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Corrado Faissola. Mi pare che dagli interventi che sono tutti e che sono stati effettuati si sia manifestata una grandissima esigenza di coesione e di miglior rapporti tra le banche e le imprese e anche una maggior, direi, interazione tra le diverse categorie rappresentanti delle imprese. Io penso che con i provvedimenti che sono stati assunti globalmente, non li richiamo, il sistema Italia abbia dato una risposta alle problematiche della crisi, e mi auguro di non essere smentito poi dei fatti, che è sicuramente unico al mondo, perché qui c'è un impegno fortissimo. Un impegno fortissimo, secondo Faissola, che completa così la rete a sostegno alle piccole e medie imprese nella difficile fase economica che stiamo vivendo. Questo costituisce un'iniziativa che va a accompagnare tutte le iniziative che già sono state assunte di intesa con l'Associazione delle Imprese e con la collaborazione fattiva del governo, del Ministero dell'Economia. Questo è l'anello che dovrebbe chiudere la nostra catena di sostegno all'impresa. Governo, associazioni imprenditoriali dell'impresa, associazione delle banche abbiano creato una rete di sostegno che, se come tutti auspichiamo i primi segnali di ripresa diventeranno più consistenti, possiamo traghettare la nostra economia, in particolare la struttura delle piccole e medie imprese, fuori dalla crisi, forti come prima, auspichiamo ancora di più. E veniamo all'altro lato dell'accordo, l'altro contraente, se così possiamo dire, ossia le associazioni imprenditoriali. La presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, parla di un accordo buono, di un passo importante. Al microfono di Irene Privitera sottolinea poi come sia importante rendere l'accordo velocemente operativo. Adesso è molto importante che questo accordo si concretizzi, che quindi quando un imprenditore a settembre andrà presso gli sportelli bancari a chiedere questa moratoria ci sia veramente concretamente, quindi ci sarà anche un monitoraggio che faremo tutti insieme proprio per far sì che questo accordo, che è un buon accordo, diventi concreto e diventi uno strumento vero a supporto delle imprese che in questo momento stanno molto soffrendo. Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Il punto mi sembra proprio questo, Nicoletta, no? La velocità di come si concretizzano questi accordi. Sì, il punto è quello che ha detto la Marcegaglia, perché se noi vediamo il testo dell'accordo, ci sono 45 giorni di tempo per le banche per poter aderire a questa intesa. Indubbiamente c'è l'agosto di mezzo, è il 3 d'agosto, forse non si poteva fare altrimenti. Le banche dovranno farsi anche bene i propri conti, comunque si arriverà ormai a metà settembre, c'è tempo fino a metà settembre. Dopodiché nel testo c'è anche scritto che le banche hanno 30 giorni di tempo per poter dare le risposte nel momento in cui l'imprenditore si presenta in banca, appunto, a chiedere la moratoria oppure a chiedere la partecipazione finanziaria per la patrimonializzazione, eccetera. E anche lì, se uno va a fare i conti, potremmo arrivare fino alla metà di ottobre, insomma, visto che si presuppone, si dice che ci potrebbe essere un impatto occupazionale, l'onda lunga, diciamo, del calo degli ordini e del fatturato di questa primavera-estate, si potrebbe riflettere sull'occupazione in autunno, eccetera, ecco, c'è da augurarsi che queste scadenze che sono state messe nel testo siano appunto per... siamo un po' ampie, diciamo così, ma che poi alla fine la risposta sia rapida da parte delle banche e ci sia anche una forte pressione da parte delle imprese, che poi appunto si presentino a chiedere. Nicoletta, sul fronte della rapidità abbiamo esempi precedenti che ci possono aiutare a capire come girano le cose? Ci sono stati altre intese firmate, per esempio a primo di luglio, come quelle di Combanca Intesa, con Intesa San Paolo, e anche lì si sta applicando, perché serve per poterle applicare, degli accordi territoriali. Roma si sta muovendo, Bari si sta muovendo, però ancora siamo in questa fase un po' di gestazione. Ecco, non vorrei, anche oggi per esempio Unicredito ha firmato un accordo con le piccolissime aziende, quindi con le associazioni dei piccoli, da Confartigianato e anche da Confcommercio, proprio per aiutare le imprese più piccole. Ecco, io vedo che si moltiplicano questi annunci, indubbiamente sono encomiabili, dimostrano una volontà di fare, e poi quando uno va a sentire la base, gli imprenditori, io li sento, li intervisto, sono ancora molti quelli che dicono: ma io ancora non investo, non sono sicuro se la banca poi mi viene dietro, i costi sono alti, eccetera. Cioè, ancora i problemi sono tutti sul tavolo. Ecco, mi auguro che con questa spinta, questa forte spinta di questo accordo di questa mattina, indubbiamente importante, quando siedono al tavolo, stamattina c'erano tutti, dalla Marcegaglia, Faessola, a Tremonti. Tremonti ha detto una frase secondo me importante, ha detto: questa intesa non è stata firmata dal notaio, ma tanto andrà avanti su una forte pressione dell'opinione pubblica. Ecco, io mi auguro che questo ci sia, che sia una forte pressione di noi che staremo a guardare il monitoraggio, e poi anche molto le imprese che insomma devono andare allo sportello, chiedere, pretendere, se non c'è dirlo. Adesso, finora abbiamo parlato molto di credito alle imprese, insomma della moratoria sui crediti, ma tra i punti dell'accordo messi in luce dalla Presidente di Confindustria c'è anche il sostegno delle banche alle imprese che decidono di aumentare il proprio capitale. Insomma, è un aspetto su cui Confindustria ha molto insistito, c'è anche appunto un impegno di questo tipo. Ultimo aspetto sul quale come Confindustria noi abbiamo molto insistito e che vede uno spazio anche in questo documento: oltre alla posticipazione del pagamento delle rate di mutuo e leasing e degli anticipi su fatture, c'è anche un impegno a dire che quando c'è un imprenditore che decide di aumentare il proprio capitale, le banche si impegnano a dare nuova finanza per un multiplo dell'aumento di capitale. Noi auspichiamo che questo multiplo sia il più alto possibile, non sia uno ma sia anche di più, ma insomma al di là di questo è molto importante che in questo progetto ci sia anche un premio per quelle imprese che effettivamente decidono di aumentare il proprio capitale. Noi siamo convinti che in un momento difficile come questo, insomma, avere anche più equity, più capitale per un'impresa diventa un elemento essenziale per poter affrontare questo momento di crisi che, per quanto veda alcuni segnali di miglioramento, però permane, quindi la situazione rimarrà di una certa difficoltà. E anche qua, Nicoletta, vale più o meno lo stesso discorso. Tu dicevi che c'è anche la necessità da parte delle cosiddette territoriali, cioè le associazioni territoriali di Confindustria, di stare addosso alle banche, no? Sì, lo accennavo prima, a livello locale ci sono i tavoli territoriali che già Confindustria ha attivato da ottobre dell'anno scorso, poi sono arricchiti anche con la presenza dei prefetti, tutto questo diciamo per poter, sull'esempio dei francesi, del mediatore francese, abbiamo insomma ripreso questa esperienza, abbiamo attivato questi tavoli locali dove ci sono prefetti, banche e organizzazioni imprenditoriali. Ecco, questi tavoli funzionano, tutti quanti puntano al dialogo, puntano a dialogare, a trovare un incontro con le banche, e penso che sia molto importante anche a livello territoriale questo tipo di lavoro che deve essere fatto e che si sta facendo. Buonasera ad Andrea Fontana di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Andrea, giornata decisamente positiva anche oggi, insomma la settimana scorsa si era chiusa malino, in realtà il complesso della settimana era andata bene, però diciamo un venerdì negativo, oggi tutto tranquillo. Sì, un paio di settimane settimane che vediamo un po' lo stesso trend in borsa, cioè una settimana, come tu ricordavi, in buon rialzo, una correzione del venerdì che nella scorsa ottava era favorita anche dal fatto che il venerdì coincideva con l'ultimo giorno del mese, quindi con aggiustamenti di portafoglio, e poi una ripartenza all'inizio della settimana. È già la terza settimana che vediamo lo stesso andamento. Oggi diciamo che c'erano tutti gli elementi per questo rialzo, cioè aumento dei prezzi del greggio, buoni dati statunitensi sull'attività manifatturiera e sulle spese per costruzioni, buon andamento dei bancari, e poi è stato il settore auto a essere un po' protagonista non solo in Italia ma un po' su tutti i listini, e questo ha favorito il rialzo vivace che tu ricordavi. Allora, FTSE All Share più 1,59%, FTSE MIB più 1,65%, in un quadro europeo che complessivamente si allinea su questi livelli, chi più chi meno: Parigi più 1,50%, Francoforte più 1,78%, dove l'America con il Dow Jones guadagna lo 0,80% e sullo Standard & Poor's 500 lo 0,95%, il Nasdaq guadagna lo 0,64%. Il settore automobilistico, dicevi Andrea, Fiat ha chiuso con un più 7,33% a 8,35 euro, tra poco arriveranno i dati, fondamentalmente è quello, no? Beh, certo, c'è oltre a un effetto settore, diciamo così, c'è l'attesa per i dati sulle immatricolazioni italiane di luglio. Fiat su questa attesa ha messo a segno un rialzo molto significativo che l'ha portata a toccare i massimi degli ultimi 10 mesi, era dall'inizio di ottobre che Fiat non toccava questi livelli, appunto inizio ottobre dello scorso anno aveva raggiunto gli 8,5 euro per azione, oggi si è fermata a 8,35. Bene tutti i bancari, lo dicevamo all'inizio del programma, positiva soprattutto la semestrale della prima banca europea HSBC, che è in utile a differenza di quanto non si attendessero gli analisti, che si attendevano una perdita, se non sbaglio, di 600 milioni di euro. Vanno bene tutte le banche e va bene in particolare Unicredit, un guadagno del 4,87%, Andrea. Certo, l'effetto delle banche inglesi, non solo HSBC ma anche Barclays, ha avuto riflessi positivi sul comparto anche in Italia, un po' in tutta Europa e anche in Italia. Unicredit è attesa domani dalla resa dei conti, diciamo così, della semestrale, quindi bisognerà vedere se, come spesso succede, insomma, gli acquisti si sono concentrati in attesa poi magari di prendere poi un po' beneficio se i conti saranno come ci si aspetta, appunto, se saranno sostanzialmente in linea o addirittura migliori delle attese, può essere che ci sia un flusso di vendite. Dall'altro canto va detto che anche sul settore bancario oggi sono arrivate le parole del direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli a proposito dello stato dell'assegnazione dell'emissione dei Tremonti Bond. Per Unicredit Intesa, ha ricordato Grilli, siamo in fase di istruttoria, mentre in fase più avanzata, quindi di finalizzazione, Monte dei Paschi e BPM, entrambi hanno sono ben cresciuti in borsa, BPM addirittura più 3,2%, Monte dei Paschi più 1,6%. Allora, per rimanere nel settore, bene il Banco Popolare più 3,26% a 5,08 euro, bene la Popolare di Milano più 3,18%, il Monte dei Paschi chiude un rialzo dell'1,60%, UBI Banca dell'1,22%, Mediobanca dello 0,71%, sostanzialmente tra i bancari non ce n'è uno in negativo. Vedo bene anche Buzzi Unicem, Andrea. Quanto riguarda Buzzi, diciamo che le indicazioni sono arrivate dalla controllata tedesca di Ikerhof, che ha pubblicato la semestrale oggi, e c'è attesa per quello che saranno invece i conti di Buzzi, che verranno diffusi il prossimo 10 di agosto. Il mercato, insomma, sulle indicazioni di Ikerhof ha già provveduto ad acquistare in maniera massiccia, tant'è vero che il titolo ha toccato anche un massimo oltre quota 11 euro durante la seduta e poi ha leggermente ripiegato sul finale. Bene, lo accennavi già te parlando del prezzo del greggio, un po' tutti gli energetici, va bene Enel più 0,60% che oggi ha annunciato la joint venture con EDF e di questo parleremo tra un attimo, e Eni che chiude con un rialzo dell'1,10%, se c'è chi come Unicredit, Andrea, va bene in attesa dei conti, c'è chi va male in attesa dei conti e mi riferisco a Fondiaria Sai. Da un paio di sedute Fondiaria Sai sta effettivamente accusando questa correzione che appunto un po' tutti gli operatori di mercato attribuiscono all'attesa appunto dei conti semestrali, ed effettivamente ha confermato anche oggi questo trend. È stata sostanzialmente l'unica del comparto finanziario del FTSE MIB ad accusare una correzione anche piuttosto sostenuta, visto l'andamento degli indici, ha perso lo 0,85%. Le ultime due note su due aziende in difficoltà, ossia Safilo e Viaggi del Ventaglio, protagoniste di rialzi veramente notevoli nella giornata di oggi. Che cosa sta succedendo su quel fronte? Per quanto riguarda Safilo, il gruppo degli occhiali è da tempo sotto osservazione non solo gli operatori di borsa ma anche degli istituti bancari, perché ha in corso un processo di ristrutturazione e risanamento, in particolare di ristrutturazione del debito che ha visto impegnati gli istituti credito negli ultimi mesi. Inizialmente si pensava all'intervento di fondi private equity, che poi invece hanno fatto un passo indietro. L'indiscrezione del weekend era l'interessamento di una cordata di imprenditori che sarebbe guidata da Antonio Favrin. È arrivata una nota di Safilo che ha precisato di non avere notizie su questa presunta cordata, ma di avere in corso una serie di verifiche per capire se effettivamente esiste questa ipotesi per il salvataggio di Safilo, e su questo il mercato ha scommesso, quindi più 11% per Safilo. Sì. Per quanto riguarda Viaggi del Ventaglio, un più 15% è arrivato appunto dopo che la società ha comunicato dell'interesse anche qui di una cordata di imprenditori guidati da Alessandro Paoletti, amministratore delegato di HDS Group, interessato a rilevare, anzi che ha sottoscritto anche un preaccordo vincolante per l'acquisto del comparto appunto di real estate del gruppo Ventaglio, il comparto immobiliare del gruppo Ventaglio, e su questa nota, un altro gruppo sotto stress finanziario, il mercato ha scommesso anche con volumi intensi. Grazie Andrea Fontana di Radio Corriere del Sole 24 Ore per essere stato con noi. E un rapido sguardo finale a quello che è successo, ricapitoliamo brevemente la giornata di borsa. I Fiat abbiamo detto più 7,33%, Unicredit più 4,8%, CIR più 3,76%, Buzzi Unicem più 3,71%, sopra i 3 punti percentuali di guadagno sia Tenaris che il Banco Popolare, la Popolare di Milano, Geox e Prismian, che ha diffuso la semestrale, ve lo dicevamo prima. Bene Bulgari più 2,83%, più 2,39% Pirelli, ST Microelectronics più 1,78%, bene Monte dei Paschi più 1,60%, Mediaset, Impregilo, Autogrill e Finmeccanica insieme a Dubibanca tutti sopra il punto percentuale di guadagno, Eni più 1,10%, più 1,05% Saipem, in fondo all'Isino troviamo Mondadori che lascia sul terreno l'1,85%, Ansaldo l'1,13%, Fondiaria Sai, lo si diceva, meno 0,85%, Eterna mezzo punto percentuale di calo. E adesso, visto che ci siamo soffermati su Terna, parliamo di energia, in particolare di nucleare. E già ve ne accennavamo prima, Enel ed EDF hanno dato vita a una joint venture per lo sviluppo del nucleare in Italia. È stato annunciato questo con una nota congiunta dei due colossi energetici. La società denominata Sviluppo Nucleare Italia SRL avrà il compito di realizzare gli studi di fattibilità per la costruzione di almeno 4 centrali nucleari con la tecnologia di terza generazione avanzata EPR, come era stato del resto già deciso dal Memorandum of Understanding firmato da Enel ed EDF il 24 febbraio scorso durante il summit Italia-Francia a Roma. Ci sarà un CDA composto da 8 persone, 4 di nomina EDF che esprimeranno il vicepresidente e il presidente, e l'amministratore delegato invece sarà espresso da Enel. Buonasera a Marzio Galeotti, docente di economia energetica e dell'ambiente all'Università Statale di Milano. Buonasera. E buonasera anche a Livio Vido, direttore ingegneria e innovazione di Enel. Buonasera. Allora, partirei con Galeotti. Ci sembra di capire, da quel che abbiamo letto in giro, professore, che lei è piuttosto critico su questo ritorno al nucleare. Ci può riassumere brevemente i motivi? Sono personalmente non contrario al nucleare come ricorso a fonte energetica alternativa come soluzione per la riduzione delle emissioni. Sono personalmente critico sul ritorno del nucleare in Italia. Penso che sarebbe meglio potenziare il nucleare là dove già esiste, perché inaugurare dal zero questo tipo di tecnologia, che non è l'unica alternativa tra quelle possibili, ovviamente ci sono anche le rinnovabili che non emettono emissioni, nel contesto particolare italiano, dato tutta una serie di considerazioni di costo, di collocazione dei siti, di opportunità da qui al 2020, perché il nucleare da qui al 2020 non darà nessun contributo né alle forniture di energia elettrica né alla riduzione delle emissioni, tutti questi elementi mi rendono molto perplesso. Mi faccia capire, professore, quello che sta dicendo lei, che sarebbe meglio comprarsi qualche centrale all'estero e portarsi l'energia piuttosto che costruirne di nuove in Italia? L'energia elettrica da nucleare viene prodotta in Francia e viene esportata, niente di strano se noi importiamo energia elettrica anche prodotta dal nucleare. Ma mi riferivo soprattutto alla situazione come quella della Germania, in parte anche dell'Inghilterra, ovviamente anche della Francia, laddove si facciano piani di potenziamento ulteriore di questi siti, perché l'accettabilità politica e sociale è un fattore che ormai alle spalle non deve essere ancora affrontato come nel nostro paese. Esistono già competenze, impianti regolatori che noi ancora dobbiamo mettere in piedi, e quindi tutti questi elementi mi inducono a pensare che sarebbe meglio, se abbiamo bisogno, di comprare energia elettrica anche da nucleare dall'estero piuttosto che farcela in casa. In casa forse dovremmo farci qualcos'altro. Allora, Livio Vido, direttore ingegneria e innovazione di Enel, come ha sentito il professor Galeotti non è un estremista dell'antinucleare né un nimby dell'ultim'ora, insomma, fa delle osservazioni che potrebbero essere prese in considerazione. Perché si sceglie di fare delle centrali qua invece di importarci l'energia direttamente dall'estero? Per rispondere al professore, noi abbiamo cominciato la nostra avventura nucleare proprio investendo in impianti nucleari all'estero. Se oggi siamo in condizione di offrire una possibilità di costruire in Italia queste centrali è perché abbiamo investito in Flamanville con EDF su il nucleare in costruzione di ultima generazione, abbiamo investito in Endesa con anche 7 impianti nucleari, e in Slovenska Elettrarne, che è in Slovacchia, che è una società che fa il grosso della produzione proprio utilizzando tecnologia nucleare. Da qui abbiamo capito che senza nucleare non c'è soluzione ai problemi energetici, nel senso che anche le rinnovabili su cui investiamo, facciamo ricerca in tutte le forme di rinnovabili, sono certamente una cosa da non trascurare, specialmente in un paese con risorse come il nostro, soprattutto nel solare, però hanno purtroppo una grande limitazione derivante dalla scarsa fruibilità di questa forma di energia in corso d'anno. E quindi il nucleare, così come il carbone pulito, sono le due tecnologie delle quali non si può fare a meno per il carico di base di grande quantità di energia che è in crescita, a parte questa crisi industriale che in questo momento ci colpisce, certamente nei prossimi anni. Non solo le risorse di combustibili fossili più pregiati come gas e olio combustibile sono in esaurimento e devono quindi essere dosate per altri utilizzi, quindi secondo noi c'è lo spazio per il nucleare in Italia, Peraltro è chiaro che l'accettabilità politica va costruita, l'impianto regolatorio. E sociale, direi, insomma, oltre che quella politica. Sì, sì, politica, sociale, ambientale, l'impianto regolatorio assente, ma c'è di che avere spunti interessanti in tutti gli altri paesi europei o mondiali che hanno prima di noi ho iniziato a investire in questo segmento. E quindi noi con questa società che abbiamo costituito vogliamo proprio affrontare la seria verifica della fattibilità nei tempi, nei costi nel nostro paese di investimenti in impianti di questo tipo. Bene, avremo tanto 11 anni di tempo, così, prima dell'arrivo della prima centrale, per vedere un attimo che cosa succederà, anche se i lavori dovrebbero iniziare abbastanza presto. Devo salutare sia il professor Marcio Galeotti sia il direttore ingegneria e innovazione di Elen, Livio Vido, per essere stati con noi, e li ringrazio, perché adesso passiamo ad un altro argomento. Perché abbiamo parlato adesso di infrastrutture energetiche, ma in questo fine settimana si è posto un problema di infrastrutture stradali, ossia il passante di Mestre. Lo sapete, lo avete letto, e forse qualcuno di voi è anche stato là in mezzo. Insomma, spero che chi era là in mezzo in questo momento sia già in vacanza. E però le code hanno raggiunto i 30 chilometri sul passante di Mestre, che è stato aperto, lo ricordiamo, lo scorso 8 febbraio, ed è lungo esattamente 32, quindi diciamo la dimensione tra la coda e il passante è praticamente la stessa. È costato 864 milioni di euro e dovrebbe assorbire il 40% del traffico appunto intorno a Mestre. E vi facciamo sentire un audio d'epoca, anche se l'epoca è passata da poco, appunto si parla di febbraio, le parole del presidente della regione Giancarlo Galan alla vigilia dell'inaugurazione. L'apertura del passante segna un'epoca, cambierà il Veneto e cambierà in meglio, e quello che mi rende felice è la certezza e la consapevolezza che è stata fatta proprio perché qualcuno l'ha proprio voluta. Io ricordo le difficoltà, la fatica, le ipocrisie, le falsità, gli ostacoli artificialmente montati. Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che cosa è successo in questa drammatica giornata del passante di Mestre? E se, professore, è imputabile ancora una volta a carenze infrastrutturali o semplicemente qua qualcuno ha fatto qualche errore? Ma dunque sì, un minimo di errori tecnici ci possono essere stati, soprattutto nel non avvisare per tempo gli automobilisti che si stavano infilando in un collo di bottiglia di questo tipo, quindi fermarli prima o deviarli con cartelli a messaggio variabile, come si suol dire, coi soldi allucinanti che paghiamo alle autostrade, altro che quello, come automobilisti avremmo diritto. E questo sicuramente è mancata, una gestione del traffico. Però bisogna anche ricordare che non si possono dimensionare le infrastrutture sulle punte, cioè sui traffici eccezionali, sarebbe uno spreco di soldi assolutamente gigantesco. E quindi è inutile fare, otto corsie solamente perché si sa che nel primo fine settimana di agosto partiranno milioni e milioni di italiani, perché in realtà si rischia di ritrovarci un'autostrada vuota e un ulteriore spreco di denaro in un fine settimana normale o in una settimana normale. Questo è il senso, professore. Problemi di punte eccezionali ci sono stati in molti paesi che hanno eccellenti reti infrastrutturali. In Germania, per esempio, c'è stata una famosa domenica nera in cui si è verificata una paralisi generale della rete infrastrutturale, e soprattutto tutti contemporaneamente. Quindi lì occorre una gestione soprattutto informatica delle punte, che già in Italia un po' è avviata. Per la questione specifica del passante di Mestre, che è un'infrastruttura utilissima, per carità, al contrario di molte ferrovie di dubbia utilità, il passante di Mestre è un'infrastruttura essenziale, si è sovrapposto il fatto che c'è stato questo aumento di capacità nuova, che tutti hanno ritenuto sufficiente, che si infilava però in una strada, un'autostrada a quattro corsie, che è la Trieste-Venezia, e quando c'è una variazione di portata, come nei flussi di acqua, lì si formano più facilmente grandi code. Naturalmente, dei grandi imbuti. È già perché uno... Sì, perché da otto corsie ne sono state improvvisamente quattro in tutto, considerando i due sensi di marcia. È fonte di... deve essere in qualche modo risolto, certamente. E già, perché uno dei problemi è questo, come sottolineava oggi in un'intervista il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, parlando però di un'altra grande opera, ossia il ponte sullo Stretto. Cioè diceva, certo, anche là è un po' lo stesso ragionamento, fare una maxi infrastruttura, magari di 30 chilometri come in questo... Non serve a nulla, questo lo sanno tutti i tecnici, o meno i politici. Professore, un'altra... questione che le volevo sottoporre è che questa vicenda del passante di Mestre ha dato un po' l'idea che in realtà il problema infrastrutturale del nord-ovest e del nord-est, che in questo momento è stato un pochino lasciato da parte in qualche misura, non sia per nulla risolto. Questo è abbastanza vero, però nel discorso, perché è lì dove c'è il massimo di domanda e quindi il ragionamento in linea di massima è vero, però bisogna anche guardare un po' in dettaglio. La domanda è molto molto abbondante, dà il luogo a fenomeni di congestione rilevante, la domanda stradale, non così la domanda ferroviaria. I fenomeni di congestione ferroviaria sono pressoché inesistenti, ci sono situazioni in cui le ferrovie sono drammaticamente sottoutilizzate, ma però la gran parte dei soldi va molto più in ferrovie che non in autostrade, il che lascia effettivamente un pochino perplessi, perché si può spostare una parte del traffico dalla strada alla ferrovia, ma sono numeri molto piccoli, tipo il 5%, qualcosa di quest'ordine, quindi bisognerebbe essere molto più attenti alla rete alle reti stradali là dove sono congestionate, dove sono molto molto cariche, quindi direi che la sostanza del ragionamento è abbastanza giusta. E grazie al professor Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano, per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera a lei. E si chiude così questa puntata di Focus Economia. Io ringrazio Mauro Del Corno in redazione e Pietro Lacorte in regia. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia. Naturalmente Focus Economia torna domani alle 17. Radio 24. La passione si sente.